Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Dal G20 un piano da 3.000 miliardi per l'euro, borse prima negative, poi in rialzo, Standard & Poor's abbassa il rating di 11 enti locali italiani. Addio a Sergio Bonelli, è morto a Monza, a 79 anni, l'editore di Tex, Dylan Dog. Processo Mediaset, Berlusconi non è in aula, come annunciato il presidente della Corte dice c'è il rischio prescrizione. Stop alla messa in onda di Baila, lo show di Canale 5 di Barbara D'Urso, copia di Ballando sotto le stelle della RAI, la decisione del giudice di Roma. Beh, è cambiata tantissimo l'Italia. Tex è cambiato passando di mano in mano, è inutile negarlo, perché passando da Bonelli padre, che lo scriveva proprio credendoci totalmente e con una sua immedesimazione quasi personale, mentre gli altri che gli hanno scritto, cominciando da me, facevano fatica ad attribuire al personaggio quelle reazioni che avrebbe attribuito Bonelli padre. Buongiorno da Alessio Maurizio, benvenuti a questa edizione di GR24 che abbiamo aperto con le parole di Sergio Bonelli. Il mondo della cultura saluta l'editore di Tex, di Dylan Dog, il figlio del fondatore della casa editrice che lanciò in Italia Tex, scomparso ieri a Monza. Ne parleremo tra poco, adesso però cominciamo con la pagina economica e con le conseguenze in Europa dell'ipotesi fatta ieri al G20 su un fondo salva stati. Ne parliamo e facciamo il punto sui mercati con Deborah Rosciani. Alessio, le borse europee trattano in deciso rialzo a metà seduta dopo un avvio che era apparso invece sotto pressione. Borse trainate dal rally dei titoli bancari che portano Milano a guadagnare in questo momento il 4%, la miglior performance europea. Gli acquisti sui titoli delle banche, fortemente penalizzate nelle scorse settimane, sono stati innescati dalle indiscrezioni emerse nel weekend relative ad ipotesi di rafforzamento del capitale degli istituti di credito europei. Secondo un articolo del Sunday Times, che non avrebbe trovato al momento né smentite né conferme, i paesi europei starebbero pensando ad un maxi piano da 3.000 miliardi di euro per proteggere banche e moneta unica, con un'iniezione di capitale da almeno 16 grandi banche internazionali. A Piazza Affari è Intesa San Paolo a balzare di oltre il 10%, il titolo a metà settembre aveva testato i minimi assoluti che erano andati ben al di sotto del livello toccato il 9 marzo del 2009, giorno dei minimi assoluti delle borse dopo lo scoppio della crisi dei mutui subprime. Anzi, adesso vi dico che Milano complessivamente guadagna il 4,59%, più 3,55% su Parigi, più 3,57% su Francoforte. Rimane un po' indietro Londra, forse meno interessata a tutta la tematica di questa mattina. La City è in rialzo di un punto percentuale. Alessio. Grazie Deborah Rosciani. Così sui mercati dunque. Adesso noi invece cerchiamo di capire l'ipotesi sulla quale si sta lavorando per convincere definitivamente i mercati sull'uscita dalla crisi dei debiti sovrani. Il settore bancario è tornato a preoccupare seriamente le autorità comunitarie. Nel fine settimana il commissario agli affari economici Olli Rehn ha esortato gli istituti di credito più fragili a rafforzare il loro patrimonio e a bloccare, per quanto possibile, il circolo vizioso tra crisi debitoria e bilanci bancari. L'esortazione di Rehn giunge mentre si discute pubblicamente della necessità di rafforzare il fondo salva stati IFSF, dotato attualmente di 440 miliardi di euro. Cresce la consapevolezza che questo ammontare non sia sufficiente. L'idea è di trasformare il fondo in banca e dargli quell'effetto di leva finanziaria che porterebbe il suo patrimonio tra i 2.000 e i 3.000 miliardi di euro. Beda Romano, GR24, il sole 24 ore, Bruxelles. E intanto sul fronte italiano nuova mini tegola, se vogliamo, sul fronte dei conti pubblici, sulla finanza pubblica, questa volta degli enti locali, sentiamo. Dopo quello sul debito sovrano italiano e quello sulle principali banche del paese, per l'Italia arriva un nuovo giudizio negativo da Standard & Poor's. Questa volta l'Agenzia Internazionale di Valutazione del Credito ha abbassato il rating di lungo termine di 11 enti locali, portandolo da A+ ad A, con previsioni di tendenza negative. Ad essere tagliato è il giudizio sui comuni di Milano, Bologna e Genova, sulle province di Roma e Mantova e su 6 regioni, Marche, Sicilia, Emilia-Romagna, Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Umbria. Per la città di Torino invece è stato rivisto da stabile a negativo l'outlook, mentre è stato confermato ad A il rating sul debito a lungo termine. Standard & Poor's ha anche abbassato i rating di lungo termine da A più ad A e ha mantenuto l'outlook negativo su alcuni dei bond emessi da Umbria, Marche e Sicilia. Per gli enti locali interessati dal declassamento, quella di Standard & Poor's è una decisione in qualche modo attesa dopo il giudizio negativo sul debito italiano, che ora sta avendo conseguenze anche sugli enti locali, oltre che sulle imprese. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E al processo Mediaset a Milano, intanto, nuove schermaglie in aula tra i giudici e i difensori del Premier. Questo è un processo a rischio prescrizione, non ci possiamo bloccare sulla rogatoria, ha detto il presidente della Corte Edoardo Davossa in replica alle richieste della difesa di Silvio Berlusconi. Gli avvocati Ghedini e Longo avevano anticipato la possibilità di impedimenti per il 5 ottobre, giorno appunto fissato per la rogatoria. Nell'udienza di oggi molti test della difesa però non si sono presentati. Inizialmente atteso in aula, il Premier, hanno confermato poco fa i suoi difensori, non arriverà al Tribunale di Milano. E sul fronte relazione di governo vediamo quali sono le misure allo studio proprio dell'esecutivo per fare fronte alla situazione economica. Per rilanciare la crescita, Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Il governo accelera sulle misure per la crescita. Mercoledì ci sarà un nuovo incontro al Tesoro tra il ministro dell'Economia Tremonti e i rappresentanti di banche e imprese. Sarà il terzo in circa due settimane. Si dovrebbero mettere nero su bianco in modo abbastanza definitivo le linee guida del decreto per lo sviluppo, che già giovedì potrebbero arrivare all'esame del Consiglio dei Ministri. Piano per le infrastrutture e liberalizzazioni dovrebbero fare la parte del leone. Non è escluso poi che si torni a parlare di pensioni, in particolare di quelle d'anzianità e di patrimoniale. Gli industriali, lo ricordiamo, propongono l'1,5 per mille. In tutto ciò si inserisce il dibattito politico e le frizioni all'interno della stessa maggioranza. Larga parte del Popolo della Libertà insiste perché sulle misure economiche vi sia più collegialità, che si dia vita alla cosiddetta cabina di regia a Palazzo Chigi, depotenziando il ruolo di Tremonti, ministro dell'economia difeso però da Bossi, che garantisce: andiamo avanti, stiamo lavorando per la crescita, aggiunge anche Berlusconi. Vareremo, aggiunge il Premier, tutte misure che avranno impatto zero sui conti. 27 interventi, fa sapere il Cavaliere, strutturali e di grande respiro europeo. Quanto al capitolo giustizia, domani arriverà alla Camera il DDL intercettazioni, altro fronte di polemiche, questo in settimana, insieme alla mozione di sfiducia al ministro Romano e al rifinanziamento della missione in Libia. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. E adesso ci spostiamo a Parma, dove ci sono nuovi guai giudiziari per la Giunta e per il sindaco Pietro Vignali. Appalti pubblici, forniture pilotate, mazzette e favori agli amici. Il comune di Parma è di nuovo nella bufera e a finire in manette, questa volta dopo il comandante dei vigili ed alcuni dirigenti, è un assessore. Giovanni Paolo Bernini, esponente del PDL, si occupa di scuola e servizi per l'infanzia. È stato arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza insieme ad altre tre persone, un funzionario comunale, suo stretto collaboratore e due imprenditori. Per tutti le accuse sono di corruzione e tentata concussione. Molti gli episodi contestati, ci spiega il comandante provinciale delle Fiamme Gialle, Guido Maria Geremia. In alcuni casi si arriva addirittura a far riproporre l'offerta dopo l'apertura delle buste per far sì che l'aggiudicazione avvenga alla ditta amica, e comunque questo è soltanto uno dei tanti episodi che sono stati riscontrati. Dalle indagini dell'operazione Easy Money, una curiosità: al telefono per l'assessore gli incontri in cui avveniva il passaggio di denaro erano, nomi in codice, conferenze stampa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dai presunti casi di corruzione di Parma all'evasione fiscale, con la nostra rubrica sul sommerso. Sentiamo. Il paese sommerso. Il paese sommerso. Storie di ordinaria evasione fiscale. Se tutta l'IVA fosse pagata regolarmente, il rapporto deficit prodotto interno lordo in Italia sarebbe tra i più bassi in Europa. Lo ha detto Mario Draghi, da governatore di Banca Italia. Secondo i dati della Banca d'Italia, infatti, tra il 2005 e il 2008 è stato evaso il 30% della base imponibile dell'IVA, equivalente a 2 punti di prodotto interno lordo ogni 12 mesi. Nel 2010 l'evasione IVA accertata dalla Guardia di Finanza ha raggiunto i 6 miliardi e 300 milioni, il colonnello Gianluca Campana. Di recente la Guardia di Finanza in Lombardia ha scoperto una frode carosello piuttosto articolata isolata nel settore della macellazione e la grande distribuzione di carni. Si trattava di imprese fantasma che acquistavano dall'estero oltre 600 milioni di prodotto che venivano poi rivendute nell'ambito del territorio nazionale. Abbiamo contestato oltre 600 milioni di fatture false in evasione di IVA per 120 milioni e abbiamo altresì consentito di apprendere il patrimonio di questi soggetti mediante il sequestro di numerosi terreni immobili, autovetture di lusso, tra cui una Ferrari, imbarcazioni e un allevamento di cavalli di razza. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E alla fine hanno vinto Milly Carlucci e la Rai, che hanno ottenuto lo stop della messa in onda di Baila, il nuovo show su Canale 5 condotto da Barbara D'Urso, accusato di plagio. Stop al programma Baila. Il Tribunale Civile di Roma si è pronunciato questa mattina sullo show di ballo con personaggi famosi di Mediaset. Il programma condotto da Barbara D'Urso, che sarebbe dovuto partire questa sera su Canale 5, viene fermato per plagio. Accettate le richieste dell'accusa presentate da Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle e appoggiata successivamente anche dalla Rai. Per l'avvocato Giorgio Assumma, che ha assistito la Carlucci, si tratta di una decisione storica perché servirà a mettere ordine nel settore della concorrenza televisiva, dove spesso si verificano casi di programmi simili, se non addirittura identici. È stato applicato il principio della legge sul diritto d'autore. Mediaset continua a sostenere che i due programmi si ispirino a format diversi, Ballando con le Stelle della Carlucci all'originale format della BBC, Baila ad uno show messicano, Bailando por un sueño. Il regista del programma, Roberto Cenci, ha commentato: «Abbiamo lavorato in tutti questi mesi per differenziarci totalmente da quel programma. Spero che venga fatto ricorso». Francesco Marinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora il calcio con la Serie A senza padroni, che vede in testa Juve e Udinese. Saluta anche la prima vittoria della Roma. Vanno avanti col freno a mano tirato le big della A. Calendario fitto e lavori in corso regalano al campionato due regine dimezzate. L'Udinese non va oltre lo 0-0 a Cagliari, la Juventus, dopo il pari interno col Bologna, fa 1-1 anche a Catania. E non ci fosse una papera di Andujar a regalare a Krasic il pari dopo il gol di Bergessio, per i Conte e Boys sarebbero dolori. Visto il passo lento del Napoli, figlio del turnover, e di una Lazio che va a strappi, ieri 0-0 in casa col Palermo, alla fine ridono le milanesi, che tra terremoto in panchina, l'Inter e infortuni in casa Milan tengono comunque il passo, mentre la Roma di Luis Enrique conquista a Parma la prima vittoria. Vero pure che la Serie A una regina in testa da sola ce l'avrebbe. Si chiama Atalanta e non fosse per le sei lunghezze di penalità ereditate da Scommessopoli, di punti ne avrebbe 10, figli di voglia di vincere qualche fischio benevolo, come succede alle grandi vere. E di essere grandi ora dovranno dimostrarlo le nostre big in Champions. Si comincia domani, l'Inter ora di Ranieri va a Mosca col CSKA, il Napoli ospita il Villarreal e mercoledì ecco Milan-Victoria. Tre gare già adesso, senza appello. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. 13:17 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato delle conseguenze in Europa delle voci dal G20 di ieri per un piano da 3.000 miliardi di euro per salvare la zona euro. Le borse prima negative in mattinata, poi sono state e sono positive. Sul fronte italiano, Standard & Poor's annuncia il taglio del rating di 11 enti locali italiani. E poi al processo Mediaset, Berlusconi non è come annunciato in aula, il presidente della Corte lancia l'allarme, c'è il rischio prescrizione. Poi abbiamo parlato anche dello stop alla messa in onda di Baila, lo show di Canale 5 accusato di plagio dalla Rai, la decisione di stopparlo da parte del giudice di Roma. Adesso le altre notizie. Andiamo in Spagna perché il premier José Zapatero ha annunciato oggi lo scioglimento delle Camere in vista delle elezioni politiche anticipate previste per il 20 di novembre. Il decreto di scioglimento del Parlamento e di convocazione delle elezioni, ha annunciato il premier uscente, è stato firmato da re Juan Carlos, sarà pubblicato domani nella Gazzetta Ufficiale. La campagna elettorale inizierà il 4 novembre, il nuovo Parlamento, ha detto Zapatero, sarà convocato per il 13 di dicembre. Ma come mai il premier uscente, tanto amato nella prima parte del suo mandato, è arrivato a questa decisione dello scioglimento anticipato delle Camere? Laura Bettini lo ha chiesto ad Alfonso Botti, docente di storia contemporanea alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Modena e Reggio Emilia. stato certamente il precipitare della crisi economica e soprattutto, e questa è una sua responsabilità grave, l'aver tardato a riconoscere la gravità della crisi. Da questo tardivo riconoscimento della gravità della crisi ne sono scaturite le conseguenze, cioè dei ritardi nell'adottare delle misure, per cui è stata una rincorsa per assecondare le istituzioni europee e placare i mercati, il sostegno alle banche nell'ottobre del 2008, i tagli del maggio del 2010 del 5% agli stipendi, il congelamento delle pensioni, la riforma delle pensioni, l'imposta sul patrimonio di cui hanno discusso alcuni giorni fa. E purtroppo mi pare che tanti temi ci avvicinano in questo momento. Lei che sì, ne pensa? Con una sostanziale differenza, che mentre lì c'è stata una presa d'atto che un cambiamento del quadro politico avrebbe dato maggiori chance al paese e possibilmente rasserenato i mercati, questa consapevolezza in Italia non c'è. E ora un ritratto dell'ex premier laburista Tony Blair e del suo attivismo internazionale tra luci ed ombre. Mai missione internazionale ha creato tanti scandali. Il ruolo di rappresentante del quartetto in Medio Oriente ha riservato a Tony Blair un'altra grana, di quelle che lasciano ombre. Così, dopo i soldi con i sospetti avanzati dalla stampa britannica, per i 30 milioni di sterline accumulati nei 4 anni passati ad occuparsi di pace tra Israele e Palestina e soprattutto di visite in Libia, ora a far discutere un'amicizia con una bella signora. La donna in questione è un'avvenente 51enne israeliana, per di più neodivorziata e soprattutto una milionaria. Lei è Ofra Strauss, capo di un colosso alimentare da 1,3 miliardi di sterline, i cui prezzi da monopolio lo scorso luglio hanno scatenato una delle più vaste proteste sociali nella storia di Israele. Blair si reca spesso nello Stato ebraico per il suo ruolo e spesso è stato visto in compagnia della bella signora, il cui portavoce ha rabbiosamente smentito le voci circolate sui media israeliani di un rapporto non unicamente di affari. Il quotidiano Maariv è arrivato al punto da scrivere una lettera aperta anche a Cherie Blair, implorandola di vederci chiaro nei rapporti del marito. Soldi e amicizie, un intreccio che sempre più mette in discussione il metodo Blair in Medio Oriente. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora, come dicevamo, la scomparsa a Monza questa mattina di Sergio Bonelli, editore di Tex e di Dylan Dog, aveva 79 anni, aveva ereditato dal padre Gianluigi, il creatore di Tex, la casa editrice. Aveva creato anche i personaggi Zagore e Mister No. Sergio Bonelli è morto all'ospedale San Gerardo di Monza, dove era ricoverato da qualche giorno per una malattia. Quasi un anno fa, in occasione del 600° numero di Tex, Dario Ceccarelli lo aveva intervistato. Risentiamo. Eccolo qua, Tex Wheeler, dopo 62 anni a cavallo del vecchio West, ancora una bella cera. Capelli neri, mascella volitiva, 2 colt micidiali. Il nostro ranger non ha voglia di finire in pensione e oggi, insieme al suo pard Kit Carson, andrà in edicola a controllare se il suo albo numero 600 è bene in vista, come merita una delle leggende del fumetto. Nato dalla formidabile fantasia di Gianluigi Bonelli, Tex con le sue storie attraversa l'Italia del dopoguerra, sopravvivendo sia alla Prima Repubblica che alla diffusione dei computer e dei cellulari. Tutto cambia, gli onesti diventano disonesti, ma lui, con sganassoni e revolverate, non smette di combattere le ingiustizie. E i suoi lettori, fedeli come i carabinieri, ancora oggi Tex vende 220.000 copie, lo premiano seguendolo nelle sue avventure, come racconta Sergio Bonelli, figlio d'arte, editore e anche autore di Tex. Allora Bonelli, 600 numeri, un bel botto. Beh, un po' presuntuosamente diciamo che ci siamo abituati un po' per volta, perché sa, già arrivare per esempio al 100, vabbè, si può anche, ma man mano che abbiamo raggiunto i 200, i 300, i 400, diciamo che abbiamo fatto il nostro preallenamento, per cui non ci ha colti del tutto impreparati, Tex, ecco. Quindi voglio dire che aumenta ovviamente l'orgoglio, però ripeto, eravamo pronti. Annotazione semplice: Tex è uscito la prima volta nel 48, adesso 48. Siamo nel 2010. È più cambiata l'Italia o Tex? Beh, è cambiata tantissimo l'Italia. Tex è cambiato